Sono stati lasciati dei volantini di Forza Nuova ieri sera dentro la Serranda delle Librerie delle Donne a San Felice. Insieme è stato trovato un biglietto in cui una persona ha scritto che due ragazzi hanno lasciato i biglietti indicando l'ora. I biglietti sono stati trovati solo oggi e dicono abbasso il gender, non esistono solo maschi e femmine, insomma con le solite frasi diciamo anti-gender di Forza Nuova. Questo perché oggi nella Libreria delle Donne abbiamo organizzato un evento sui libri per bambini gender variant, in modo tale da mettere di strumentalizzare i bambini gender variant in questo momento in cui c'è un dibattito anche da parte delle TERF che attaccano, anche da parte del Vaticano che attacca questo farmaco che blocca la pubertà. Comunque in generale questo progetto, questa iniziativa è fatta in modo per dare ai bambini gender variant, alle bambine gender variant, degli strumenti, delle storie in cui si possono riconoscere. Devo specificare che gender variant non significa trans, è una fase che molte persone insomma passano, può anche finire lì, e poi in alcuni casi alcune persone possono intraprendere un percorso di transizione sociale o medica da grandi, però gender variant non significa che si cambia sesso, insomma, questo lo volevo sottolineare. Quindi sì. Quello di oggi, un evento appunto dedicato ai bambini, a quella che è l'editoria per i bambini, alla rappresentazione insomma per bambini e bambine, un evento organizzato dalla Libreria delle Donne, ma non solo, nel senso che partecipano un sacco di diverse associazioni, e questa insomma è stata la risposta dei fascisti, degli stessi fascisti tra l'altro che la scorsa settimana in vista del congresso di Verona invocavano la libertà di opinione. Sì, questo comunque fa parte di un percorso per cui abbiamo vinto un bando finanziato dal MIT, Transitional States e Wellcome Trust, che appunto si occupa di questo tema, per cui oltre a queste iniziative ci saranno due laboratori per bambini e un incontro con Camilla Vivian, che ha scritto un libro sulla sua famiglia e ci sarà il 16 maggio. Siamo sotto attacco continuamente perché qualsiasi cosa riguarda il gender è sempre sotto attacco, spesso con molta disinformazione, con violenza e soprattutto strumentalizzando soggettività e persone che non hanno possibilità di replica, come ad esempio persone minorenni o comunque i bambini che non hanno la possibilità di dire il proprio punto di vista. E questo è molto grave perché comunque tutta la destra cattofascista sta usando i bambini come strumento di propaganda per le proprie idee di intolleranza, omofobia, transfobia e tutte le varie limitazioni contro l'aborto, contro il divorzio, per cui i bambini vengono sempre tirati in mezzo a sproposito, appunto strumentalizzati. E proprio in questa direzione, diciamo nella direzione opposta di questa strumentalizzazione, va anche l'incontro di oggi. Sì, noi volevamo, come dire, fornire degli strumenti a genitori, soprattutto insegnanti, perché spesso si trovano magari in difficoltà, avendo sia in famiglia, sia sul lavoro, a scuola, ad avere a che fare con dei bambini e delle bambine gender variant e non hanno degli strumenti né, diciamo, professionali per affrontare questa cosa, ma nemmeno anche degli strumenti da, come dire, delle storie di cui i bambini hanno bisogno. Cioè, non dobbiamo dimenticare che i bambini sono bambini e quindi hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di storie e devono fare tutte le cose che devono fare i bambini di solito, perché non è una persona, non è solo l'identità di genere o l'identità sessuale, ma poi proprio in quell'età hanno bisogno di molto altro, hanno bisogno anche di rassicurazione, hanno bisogno di forza, hanno bisogno di sicurezza, non hanno sicuramente bisogno di gente che li attacca e gli dice che non esistono, che sono contro natura, che sono dei mostri. Perfetto, io ti ringrazio e intanto tutta la solidarietà comunque per questo attacco fascista che avete ricevuto, e comunque l'evento che sarà tra pochissimo, tra un'ora a questo punto, si terrà comunque. Sì, sì, ci sarà, saremo qua a Libere delle Donne alle 6. Ospiti ci saranno anche Progetto Scosse, Metra dell'Università di Forlì, l'editrice 79 e anche un illustratore che fornirà il suo punto di vista, diciamo, tecnico sui vari libri. Noi siamo qua e non ci faremo fermare.